Gli speciali di Radio 24. Gianni Rodari, una vita nella fantasia, di Alessandra Tedesco. C'era una volta il ragionier Bianchi, di Varese. Era un rappresentante di commercio e 6 giorni su 7 girava l'Italia intera, a est, a ovest, a sud, a nord e in mezzo, vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua e il lunedì mattina ripartiva. Ma prima che partisse, la sua bambina gli diceva: «Mi raccomando, papà, tutte le sere una storia». Perché quella bambina non poteva dormire senza una storia. E la mamma, quella che sapeva, gli aveva già raccontato tutte anche 3 volte. Così iniziava Favole al telefono, uno dei libri più famosi di Gianni Rodari, lo scrittore che ha rivoluzionato la letteratura per bambini. Rodari era nato a Domegna, in Piemonte, nel 1920 in una famiglia modesta. Riuscì a studiare grazie al seminario, nel 1937 diventò maestro, fece la resistenza e si iscrisse al Partito Comunista Italiano. Iniziò a fare il giornalista e nel 1947 arrivò a Milano, cominciò a lavorare all'Unità. Qui lo conobbe Roberto Denti, giornalista che lavorava al Sole 24 Ore e che oggi gestisce la Libreria dei Ragazzi a Milano, la prima di questo genere in tutta Europa. Nel 1947 l'Unità ha chiamato da Varese, dove si occupava del settimanale del PC, del Partito Comunista, Rodari, e incidentalmente dal cassetto o dalla scrivania del direttore dell'Unità sono uscite molte lettere di bambini e il direttore ha detto: Rodari, tu che hai fatto il maestro, prova a vedere di rispondere. È stato casuale. Ho capito che cosa stava succedendo nella sua testa e quello che lui ha cercato di trasmettere agli altri. Capire come sono i bambini, mettersi dalla loro parte, non apparentemente, non fare il bambinista, ma strutturalmente capire il loro modo di pensare in modo da aiutarli a sviluppare il loro pensiero. Il libro è un elemento che può essere utile per sviluppare il pensiero. E così il primo esempio di scrittura rodariana per bambini furono le risposte alle lettere che i piccoli scrivevano ai giornali. Nel 50 Rodari andò a Roma, dove fondò il giornale per ragazzi Pioniere. Venne scomunicato dal Vaticano e le chiese iniziarono a bruciare nei cortili i libri dello scrittore. Alla fine degli anni 50 tornò a lavorare all'Unità, mentre nel 58 passò a Paese Sera, faceva il giornalista e scriveva libri. C'era un fabbro ferraio che aveva 2 nasi, uno per tutti i giorni e uno per la festa. Il naso di tutti i giorni era pieno di bitorzoli e di foruncoletti, quello della festa invece era liscio e morbido e lucido, una bellezza. La domenica mattina il fabbro chiamava sua moglie e le diceva: «Rosa, dammi il naso della festa!» Rosa prendeva il naso da una scatoletta che teneva nel cassettone. Il fabbro si toglieva il naso brutto e lo posava sul comodino e poi si aggiustava sulla faccia il naso bello. Quando era ubriaco, tentava sempre di mettersi tutti e 2 nasi insieme, così non sapeva più quale soffiare. Prima ancora che in Italia, Rodari, come scrittore per l'infanzia, divenne famoso in Russia grazie al placet del regime comunista. In Russia uno dei suoi personaggi, Cipollino, era decisamente più famoso del disneyano Topolino, reo di essere made in USA. Ma qual è la difficoltà di tradurre Rodari in russo? Lo abbiamo chiesto a Mikhail Wiesel, che sta traducendo Gli affari del signor Gatto. Non sono per me, per la letteratura, diciamo, russa, che Rodari in questo libro che io ho preso, che io ho alle mani mie, che questo libro Gli affari del signor Gatto. Ci sono 2 pezzi in prosa e 10 filastrocche in rima, non in rima. E questa è la difficoltà principale, perché i rimi di Rodari sono i ri, le rime di Rodari sono le rime novecentesche, cioè abbastanza irregolare. E noi, io devo farlo in modo più accettabile per lettore russo piccolo, perché letteratura per i bambini per Russia sono più in senso di filastrocche e più regolare. Come dicono gli inglesi, I do my best, faccio il mio meglio per fare questo libro più leggibile che possibile. Giovannino Pertigiorno, gran viaggiatore e famoso esploratore, capitò una volta nel paese degli uomini di burro. A stare al sole si squagliavano e dovevano vivere sempre al fresco. E abitavano in una città dove al posto delle case c'erano tanti frigoriferi. Giovannino passava per le strade e li vedeva affacciati ai finestrini dei loro frigoriferi, con una borsa di ghiaccio in testa. Sullo sportello di ogni frigorifero c'era un telefono per parlare con l'inquilino. Pronto? Pronto? Chi parla? Sono il re degli uomini di burro. Tutta panna di prima qualità, latte di mucca svizzera. Ha guardato bene il mio frigorifero, perbacco, è d'oro massiccio. Ma non esce mai di lì? D'inverno, se fa abbastanza freddo, in un'automobile di ghiaccio. E se per caso il sole sbuca d'improvviso dalle nuvole mentre la vostra maestà fa la sua passeggiatina? Ma non può, non è permesso, lo farei mettere in prigione dai miei soldati. Boom, disse Giovannino e se ne andò in un altro paese. Il capolavoro pedagogico di Rodari è considerato La grammatica della fantasia, un saggio rivolto a insegnanti e genitori sull'arte di inventare storie. Fra le sue opere più note, Filastrocche in cielo e in terra, Favole al telefono, C'era due volte il barone Lamberto, La freccia azzurra. Ma cosa ha rappresentato Rodari nella storia della letteratura per bambini? Pino Boero, docente universitario e studioso dell'opera rodariana. Fin dagli anni 50 Gianni Rodari ha portato il mondo del lavoro, il mondo di tutti i giorni, il mondo della fatica e anche della sofferenza dei bambini all'interno della letteratura per l'infanzia, ma l'ha fatto non tanto e non solo con gli accenti così di rappresentazione triste e drammatica, ma anche e soprattutto con gli accenti dell'utopia, dell'allegria, del capovolgimento. Per cui gli operai hanno la tuta azzurrina, da un lato si parla di operai, ma dall'altro non si gioca sul termine così triste e doloroso. Rodari da quel punto di vista lì è stato davvero un rivoluzionario. I bambini attraverso le sue filastrocche, quelle degli anni 50 in primis, hanno scoperto un mondo che forse prima nella letteratura per l'infanzia non c'era, o perlomeno non c'era in quei termini, ma l'hanno scoperto con la grande libertà anche del sorriso. E secondo lei nei bambini che cosa scatta quando ascoltano Rodari o magari quando lo leggono in prima persona? Beh, io direi che la dimensione del gioco, la dimensione della trovata fantastica, dell'invenzione che spiazza al lettore sicuramente costituisce un dato importante. Rodari sapeva spiazzare il suo lettore capovolgendo i finali, mescolando le storie, raccontando e dicendo che da una storia vecchia può nascere una storia nuova. Io credo che il lettore, piccolo e grande, entrasse proprio e entri ancora oggi in questi meccanismi e capisca che davvero le vie della letteratura, delle storie, della fantasia sono infinite. Che tipo di eredità ha lasciato Rodari? Ci sono degli scrittori che in qualche modo oggi sono stati influenzati dal suo modo di scrivere, di approcciare la scrittura per bambini e ragazzi? Ma io credo di sì, sicuramente, già in anni lontani autori come Piumini e Pizzorno, per citarne due, erano sicuramente, sono stati attenti lettori di Rodari, ma direi che più che nomi di autori Rodari è riuscito a cambiare un clima. Non dimentichiamo che oltre ai testi narrativi o di filastrocche ci ha consegnato anche, altrettanto importante, Grammatica della fantasia, che se vogliamo è un piccolo manuale, è un testo teorico finché si vuole, ma è un testo straordinariamente aperto a tutti, agli scrittori, agli autori per l'infanzia in particolare, ma anche agli insegnanti e agli educatori in generale. Dal 7 luglio ogni sabato con il Sole 24 Ore c'è la possibilità di acquistare un libro di Gianni Rodari con le illustrazioni di grandi disegnatori come Bruno Munari. Una collana di 20 volumi, da Favole al telefono a Le avventure di Tonino l'Invisibile, ogni sabato con il Sole 24 Ore.